1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7:19 minuti e mancano ancora, dopo questa, 6 sveglie all'alba per quel che mi riguarda, e poi 24 mattino andrà in ferie. Contento Peter Bescapelli in regia, Lorenzo Nespoli, tanto tu sei qua a lavorare, anche tu sei qua a lavorare, va bene. Noi il 29 luglio ci fermiamo, riprenderemo il 5 settembre, credo, forse poi, chi lo sa. Va bene, allora siamo qui, questo è il momento della rassegna stampa, della lettura dei giornali, andiamo a sfogliarli. Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh. È giovedì 21 luglio, i titoli sono diversificati oggi. Il Sole 24 Ore apre su Montepaschi, maxi piano sugli NPL, cioè i non performing loans, e per l'aumento di capitale. Mentre la scelta del Corriere della Sera è: una rete pilotava i processi, soldi per i giudici nelle scatole di spumanti, donne regali, arrestato Ricucci. Così il Messaggero: tangenti per aggiustare i processi. Per Repubblica invece la vicenda al Senato, quando sono state respinte le autorizzazioni a utilizzare alcune intercettazioni delle olgettine con Berlusconi. Intercettazioni, un salvagente per Berlusconi. È il titolo di Repubblica. Il Fatto Quotidiano invece titola così: è tornato l'inciucione. Per La Stampa: stato di emergenza in Turchia, è una delle aperture su Erdogan. Per il giornale: Erdogan purga le donne, incubo Turchia. Tabula rasa invece è il titolo del Manifesto, con una foto delle epurazioni di Erdogan. Strage di libertà è per Avvenire, dichiara Erdogan 3 mesi di stato di emergenza. Mentre Golpe in Turchia è il titolo dell'Unità. Libero invece: contro il terrorismo islamico, il titolo è questo: imparare da Israele a difendersi. Questa è l'apertura. Come detto, è tornato in carcere Ricucci, vi ricordate, uno dei furbetti del quartierino, poi in maniera un po' compassata era ritornato alla propria vita, anche però a fare affari, false fatture. Ricucci torna in carcere. La cronaca del Corriere della Sera, pagina 8, con la caparbietà, l'ingegno finanziario che già in passato si è attribuito procurandosi altri guai giudiziari, Stefano Ricucci non si era rassegnato al crack della sua Magiste International ed era convinto di poter sottrarre 20 milioni di credito d'imposta alle procedure fallimentari. Un giudice, un commercialista e un imprenditore legato alla criminalità erano funzionali al piano che sarebbe stato realizzato con liquidità ottenuta da false fatture per inesistenti servizi resi durante Expo 2015. Una presunta corruzione, società terze utili al gioco. Questo è l'impianto dell'accusa. Ricucci, arrestato insieme a Mirko Coppola, imprenditore che non ha alcuna parentela con l'altro furbetto del quartierino Danilo Coppola, che era per altre vicende legato a Ricucci, è finito in carcere, tra l'altro con la frase che entrerà anche questa già nella storia, già entrata nella storia: ma che, mi portate in galera per un paio di fatture? Così ha detto al momento del fermo. Tra l'altro, questa vicenda si lega anche alla figura di un giudice del Consiglio di Stato. Questo giudice è Nicola Russo, che raccontano Fulvio Fiano e Ilaria Sacchettoni sul Corriere della Sera, è corrotto con donne e soldi, come per esempio la presenza nell'hotel Valadier con tale Zaineb Dridi. Di tutta evidenza, scrivono nel decreto di perquisizione, che un magistrato si fa accompagnare con l'amante barra meretrice, così insomma sputtanato su tutti i giornali già, con stralci di questa ordinanza, questo giudice. Fiorenza Sarzanini a pagina 9 racconta che tutto parte da qualche giorno fa dal sequestro di 247.350 euro occultati in una confezione di vino Ferrari, in una confezione di vino Cavelliere, in una scatola recante il logo Frittina, tutti chiusi con nastro adesivo. Queste banconote da 247.340 euro sono trovate a casa del funzionario di Palazzo Chigi, Mazzocchi, Renato Mazzocchi. indagato per riciclaggio. E da lì si parte, perché si racconta di un elenco di sentenze sequestrato a casa di questo funzionario di Palazzo Chigi. Alcune riguardano Berlusconi, fa sapere il Corriere della Sera, ed è da qui che si parte con l'accusa: mazzette non spumante, così pilotavano i processi. È la vicenda che ha portato qualche giorno fa anche all'arresto di Pizza, il fratello dell'ex sottosegretario Pizza. In questo sistema, racconta Fiorenza Sazzanini, tra virgolette sistema, emerge il ruolo di Nicola Russo, giudice accusato di aver favorito Ricucci. Molti indagati ne parlano, le verifiche svolte sul suo conto hanno fatto emergere i regali e i favori ottenuti, come le due notti insieme all'amante Zainab Dridi. Eccolo qua. E a lei tutto sui giornali spiattellato. Va bene, cari italiani, cari consumatori, cari utenti dell'energia elettrica, delle compagnie di energia elettrica, sappiate, come raccontano tutti i giornali, lo leggo dal Sole 24 Ore, Matteo Meneghello a pagina 11, il TAR della Lombardia contro l'Authority su un ricorso del Codacons e del Comitas. I giudici del TAR della Lombardia hanno sospeso in via cautelare gli aumenti delle bollette di luce e gas scattati lo scorso 1° di luglio. Aumenti decisi il 28 giugno. Però sappiate che è un braccio di ferro quello in corso tra l'Autorità per l'Energia Elettrica e il TAR della Lombardia sugli aumenti delle bollette. Perché? Perché l'autorità ha a sua volta proposto immediata istanza di revoca al decreto del TAR, che si presta a essere censurato in quanto si basa, secondo l'Authority, su una erronea rappresentazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti. La decisione di aumentare le tariffe era del 28 giugno, l'adeguamento previsto del 4,3% per l'elettricità e dell'1,9% per il gas. Bisogna capire ora come andrà avanti la questione. Per il momento il TAR ha sospeso questi aumenti, quindi soddisfazione immagino per tutti noi, ma chissà se la partita è davvero finita, eh? Questo lo staremo a vedere. Come sapete, c'è anche una polemica sui giornali, come abbiamo sentito anche il giornale radio, sulla questione dei vaccini, perché i vaccini ai bimbi e la decisione molto dura della Federazione degli Ordini dei Medici di sanzionare fino alla radiazione coloro tra i medici che decidono di non vaccinare, di sconsigliare i vaccini. È un'infrazione del codice deontologico, fa sapere l'Ordine dei Medici. C'è la solita diatriba, la solita questione, e c'è un'intervista di Maria Corbi al Ministro della Salute Beatrice Lorenzini, intervistata dalla Stampa. A pagina 13 dice il Ministro della Salute in maniera molto chiara: non ci può essere obiezione di coscienza sulla vaccinazione. Mi scusi, su cosa si basa l'obiezione di coscienza in questo caso? I medici devono agire sottoponendosi all'evidenza scientifica e tutta la comunità scientifica compatta denuncia il pericolo della disinformazione sui vaccini. Le vaccinazioni sono l'elemento numero uno della prevenzione, hanno salvato miliardi di persone. In Italia però calano in maniera costante dal 2012. Purtroppo sì, conferma il ministro, iniziamo a pagarne il conto. Questa paura medievale mette a rischio la salute dei nostri figli. Nel momento in cui un territorio non è più coperto, ricompaiono malattie che sembravano debellate. Questo può provocare la morte anche di chi non si è potuto vaccinare per serie ragioni cliniche. Solo in un ambiente sicuro, dove si è protetti dall'effetto gregge, queste persone possono vivere la loro vita con normalità. E dice Beatrice Lorenzini: ovviamente i miei due gemellini sono vaccinati e non vanno ancora al nido perché non hanno l'età per proteggersi da meningite e morbillo, e io ho paura. Così il ministro Lorenzini, che dice dunque nessuna obiezione possibile per i medici sul tema vaccini. Questa è una storia invece paradossale che ho trovato sul Corriere della Sera, la racconta Luigi Ferrarella, pagina 22, eccolo qui, l'ex PM che chiede di lavorare gratis, è la storia di Ferdinando Pomarici, 74 anni, ex procuratore aggiunto milanese, che una volta andato in pensione dopo essersi occupato in 40 anni di magistratura di sequestri di persona, le Brigate Rosse, l'omicidio Calabresi, il processo ai vertici della CIA, giusto per riassumere alcuni casi, ha fatto capolino in procura a Milano, ritenendo di poter continuare a dare una mano ai suoi colleghi, dicendo: voglio farlo senza oneri previdenziali, così a svolgere magari attività di formazione a favore di altri magistrati in procura, insomma do una mano, mi metto a disposizione. Il CSM, l'organo di autogoverno della magistratura, ha esaminato il caso del dottor Ferdinando Pomarici e ha detto: lavorare gratis non puoi, è vietato. E lui, racconta Luigi Ferrarella, sconsolato, dice: si accusano i magistrati di lavorare poco, se ne trova uno che si rende disponibile a mettere gratuitamente la propria esperienza a beneficio dell'ufficio e gli si risponde che non lo può fare. Prendo atto della situazione. E va bene, storie all'italiana. Ma eccoci qui, l'articolo che mi fa più pensare della giornata. Ah, questa è una storia anche carina a suo modo, carina. Enrico Fierro e Lucio Musolino raccontano sul Fatto Quotidiano quello che sta succedendo al Senato. In Senato è arrivata una richiesta d'arresto per il senatore Caridi. Se il senatore finisce in galera, c'è il sindaco cacciato per mafia. Ecco cosa succede al Senato. Miracoli calabresi. Un senatore della Repubblica rischia l'arresto per reati di mafia. Si chiama appunto Caridi. Ma se il Parlamento deciderà di accogliere la richiesta dei giudici, al suo posto subentrerà un altro senatore. E questo senatore, il primo dei non eletti, anche lui è nei guai. Perché si tratta del senatore, potrebbe diventarlo, Arena, sindaco di Reggio Calabria, quando Reggio Calabria è stata sciolta per mafia. Eccolo qui dunque, che bella staffetta. Se il senatore finisce in galera, subentra il sindaco cacciato per mafia. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. Io, l'unica frase fatta da me di vocale, se tu sei smonti, tradusla, tu puoi deslei, dottes li notices che tu vuoi, mande. Va bene, caro ascoltatore, va bene, sono, alzo le mani e dico va bene, hai ragione te. Allora, eccoci qui con il fatto politico del giorno. In Senato, a scrutinio segreto, è stato deciso che la Procura di Milano non potrà usare alcune intercettazioni delle due delle olgettine, cosiddette due delle ragazze, al telefono con Silvio Berlusconi nel processo Ruby Ter. 130 senatori hanno negato l'utilizzo delle intercettazioni, mentre i sì all'utilizzo sono stati 120, 8 gli astenuti. La questione è deflagrata in maniera politica, l'accusa da parte del Movimento 5 Stelle, difendete così l'accordo anche da parte della Lega tra PD e Forza Italia, un inciucione, insomma sono partite le accuse di segreti accordi, tanto che racconta il Corriere della Sera, pagina 10, scontro PD 5 Stelle sulle intercettazioni di Berlusconi, nemmeno il tempo di leggere il tabellone luminoso ed esplode la polemica incrociata al Senato, con tanto di seduta sospesa per intemperanze, i 5 Stelle contro il PD e viceversa. L'unica certezza è che il Senato ha negato l'autorizzazione all'uso delle intercettazioni. 11 telefonate tra Berlusconi e le due olgettine Iris Berardi e Barbara Guerra, agli atti del processo Ruby Ter, non potranno essere usate contro il leader di Forza Italia. Qui le accuse politiche. In realtà, giusto per rimanere sul Corriere, sempre Luigi Ferrarella, di cui ho già letto prima un articolo, racconta in un'analisi le tre ragioni per cui nel processo non cambia quasi nulla. Quasi nulla. La voce di Berlusconi, scrive Ferrarella, rimarrà agli atti. In generale cambia poco per l'udienza preliminare prevista il 3 ottobre e che potrà dunque portare o al rinvio a giudizio di Berlusconi o al proscioglimento. È il processo Ruby Ter. La procura di Milano contesta a Berlusconi la corruzione di 30 testi in cambio della loro falsa deposizione sulla prostituzione delle notti ad Arcore. E perché la voce di Berlusconi rimane comunque? Primo, perché le intercettazioni non saranno distrutte ma continueranno a essere usabili contro le ragazze per comprovare la loro condizione di testi corrotte. Secondo, paradossalmente, quella di Berlusconi e la voce con le ragazze non è un'intercettazione, perché non erano una telefonata intercettata dalla procura. Era una telefonata che le due ragazze hanno fatto a Berlusconi, registrando loro la voce di Berlusconi. Dunque, non è un'intercettazione, cioè un flusso di comunicazioni captato tra Berlusconi e Barbara Guerra, ma è un documento, cioè un audio registrato dalla ragazza e sequestrato sul suo telefonino in una perquisizione. Se terza ragione, che per cui non cambierà molto, scrive Ferrarella, è che i PM contano su altri indizi, come l'agenda di Ruby, il diario di Iris Berardi, la bozza di lettera a Berlusconi da parte dell'ex fidanzato di Ruby. Queste altre prove sono invece ammesse. Insomma, rimane la questione politica, lo scontro, le accuse incrociate tra il PD e il Movimento 5 Stelle. Oh, che bello, eh? Si è rianimata un po' sui giornali la politica, mi mancava, eh? Dite la verità, mi mancava moltissimo, soprattutto vissuta per queste cose pregnanti che incidono sulla vita quotidiana di tutti noi cittadini. Oh, tra l'altro, il centrodestra va registrato, per quel che sono i movimenti del centrodestra, due cose importanti, e cioè un'intervista e un retroscena sul Foglio. Il retroscena è questo: cosa c'è dietro la mossa del Cavaliere di puntare su Parisi per rilanciare Forza Italia. Stefano Parisi, recentemente candidato a Milano, ha perso, ma ha rilanciato il centrodestra. Secondo Berlusconi è lui l'uomo che può federare in qualche modo la destra, azzerando tutti gli attuali vertici di Forza Italia e puntando su Stefano Parisi. Questa è la retroscena del Foglio. Cosa c'è dietro la mossa del Cavaliere di puntare su Parisi per rilanciare Forza Italia? La nuova traiettoria del centrodestra tra segnali visibili, ricorsi a Strasburgo, piani per il dopo referendum, e tenete conto che venerdì, cioè domani, ci sarà un vertice ad Arcore. Berlusconi ha convocato tutti i dirigenti di Forza Italia, ha convocato anche Stefano Parisi, e dice il Foglio, assicura Berlusconi farà tabula rasa. Guarda caso, oggi Stefano Parisi rilascia una lunga intervista in una pagina alla Stampa. Guarda caso, guardate le coincidenze. Lo intervista Luca Ubaldeschi, che è lo stesso che aveva intervistato Confalonieri qualche giorno fa sulla Stampa, e Confalonieri aveva detto rilanciamo il patto del Nazareno. Ebbene, Parisi sulla Stampa dice: convention a settembre, mi candido a dare una mano. Non è che dice mi candido a guidare il centrodestra, perché ovviamente non sia mai che non si dica sempre che è Berlusconi il capo del centrodestra. Berlusconi, di cui dice Parisi, è stato a lungo motore della parte più moderata dello schieramento e deve continuare ad esserlo, da padre nobile, da fondatore. Comunque, Parisi dice, il desiderio è non disperdere l'esperienza fatta a Milano, non è questione di leadership, risponde subito alla domanda, dunque sarà il nuovo leader del centrodestra, non è questione di leadership, risponde Parisi, ma voglio provare a rigenerare il centrodestra con un programma politico liberale e popolare, alternativo al centrosinistra, concorrente con i 5 Stelle. Partiremo con una convention programmatica a settembre a Milano in cui raccoglieremo idee e proposte. Chi parlerà? I nomi li dirò più avanti, ma ci saranno persone dell'università, del mondo delle imprese, persone che hanno dimostrato di saper fare. E anche qui, guarda caso, ennesimo dettaglio, non cita politici, perché Berlusconi, questo è il retroscena, questo è quello a cui ambirebbe l'ex premier, è quello di fare tabula rasa dei politici, appunto, di professione, per dare invece il via a una nuova forma politica legata però a imprenditori, persone della società civile, pensatori, insomma, non politici in senso stretto. Staremo a vedere se cambierà così il centrodestra. In tutto questo anche il Movimento 5 Stelle fa le sue mosse, racconta Massimo Franco sul Corriere della Sera, che è molto impegnato Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, dato per tutti come possibile premier in pectore se ci fosse un governo 5 Stelle. Ebbene, secondo Massimo Franco del Corriere della Sera, Di Maio ha incontrato i lobbisti, rappresentanti di Enel, Vodafone, Microsoft, Confindustria, Codacons, Fastweb, 3M, fondazioni, assicurazioni, studi legali, reti di manager, per convincerli che il movimento sta cambiando, si sta evolvendo. E l'articolo è proprio dire: ma come? Proprio Di Maio, i grillini che contro le lobby si sono scatenati da sempre, dicono la linea fuori lobbisti dal Parlamento. Così gli chiede per esempio alla fine Fabio Bistoncini della FBE Associati, che ha organizzato l'incontro avvicinato: siete ancora di questa linea? E Di Maio risponde: vorremmo una legge che regolamenti la partecipazione dei gruppi di interesse alle procedure legislative. Insomma, si nota un cambio di passo, un cambio di tono. E tanto che Massimo Franco racconta, e ora Luigi Di Maio, che già è andato in Israele, cioè sta cercando di accreditarsi, a settembre andrà in America, ora si avvicina anche al Vaticano e punta a un incontro per accreditarsi anche in Vaticano. Strategie di cui Mauro Meazza è padrone assoluto, lui che incontra potenti della terra, del mondo, quotidianamente, vero Mauro? Ne è vero, Mauro? Certamente, cominci da me. Da me. Ti dirò di più, esatto, comincio da te tutti i giorni, quindi potentissimi, mi verrebbe da dire, della terra, della radiofonia tutta globale. Senti, hai detto che vai in ferie il 29, cioè ma l'ultimo una giorno. Vaga presa per il culo, ma insomma adesso... No, adesso non era... Sì, il 29, ieri ho incontrato il direttore del personale, mi ha detto che stai lavorando sotto traccia per cercare di boicottare. No, è che ci sono delle evidenze per quel giorno che... Ma forse io consiglierei che... Ad esempio, il 29 sera, sì? Il 29 sera saranno diffusi i risultati di questi festeggerò con un bel mojito per gli stress test il 29. Vediamo se riusciamo a festeggiare anche come sistema bancario, perché come ti spieghiamo oggi sulle Sole 24 Ore, non ci sarà una ricapitalizzazione obbligata, cioè non saranno obbligate subito le banche a intervenire, ma sarà un passaggio in vista di quello che poi si vedrà a fine anno con questo sistema di analisi che si chiama SREP in sigla, e che insomma serve a dire poi cosa devono fare le banche per essere in condizioni di sicurezza. Vabbè, comunque vediamo, perché poi il 29, scusami, c'è anche una cosa che ti sta molto a cuore, sì, cioè la riduzione delle società partecipate, degli enti locali. Se leggi oggi su Sole 24 Ore, ti segnaliamo che il testo finale è stato trasmesso alle commissioni parlamentari e devono rendere il parere entro il 29. Dopodiché si comincia e si taglia, tra l'altro alcuni limiti sono stati pure rialzati, ma trovi tutti i dettagli, quindi mi sembra che tu il 30 debba ancora essere al lavoro, ma anche il primo agosto. Vedremo, adesso. Vediamo. Adesso apriamo un dossier. Ne riparliamo. Hai già parlato con Sonny V? No, V Cumprà, no, non ancora. Sonny V Cumprà potrebbe essere anche una cosa Sonny carina, V, se non fosse che è il tuo futuro acquirente. Presidente, mi metto sull'attenti, già che cravo. Sonny V Cumprà è effettivamente un'ottima battuta, ti consiglio allora attentamente e avidamente la lettura delle pagine di Finanza oggi su Sole 24 Ore, tra le molte cose di cui riferiamo. A soldi? Cioè, pare di sì. Poi tra l'altro sarebbe insieme un altro signore che si chiama Stephen Zeng. Ha soldi? Dovrebbe avere soldi anche questo signore, risultano tra gli uomini più ricchi della Cina. Poi non puoi andare in ferie, anche perché, forse quello lì sì, qualche giorno te lo facciamo fare. Ieri sai che si sono viste Theresa May e Angela Merkel. Sì. E abbiamo capito che anche in inglese si può dire melina. Cioè, sai che bisogna che la Gran Bretagna presenti questa richiesta che stella di uscita. E ha detto non lo faremo prima della fine dell'anno. Esattamente, lo puoi leggere oggi su Sole 24 Ore naturalmente. E come dire, stavo cercando appunto nel dizionario il termine melina, non so se è stato esportato insieme ai nostri allenatori anche dalle parti loro, sembra proprio di sì. Oh, ti voglio poi dire, è importante che l'Unione Europea stia pensando a una revisione del sistema dei dazi, sì. Perché sai che incombe su di noi questa decisione sulla Cina, economia di mercato, che sarebbe abbastanza deleteria per, soprattutto per le nostre imprese, anche per altre produzioni europee. Ecco, se leggi oggi sul Sole 24 Ore vedrai che si sta pensando a un sistema per modificare appunto i dazi anche quando le economie sono a forte prevalenza pubblica, come mi immagino, spero che questo non condizioni sonni VU Cumprà, come l'hai tu definito. Per sì, sì, sì, sì, l'ho già messo anche su Twitter, VU Cumprà. Sonni VU Cumprà. Delle bollette abbiamo, l'hai già detto, e me ne compiaccio come sempre. Sì. Ti segnalo che oggi, essendo giovedì, troverai anche le pagine di Casa 24, un interessante confronto per chi conviene il leasing abitativo, sai, una formula nuova di acquisto rispetto al mutuo. Leggi con attenzione e medita. E nel frattempo, caro Alessandro, traffico! Alessandro Milan, il che cos'è dell'informazione? Ce n'è anche oggi, caro ascoltatore, ma procediamo per ordine. Prima la Turchia, la situazione è sempre difficile, come abbiamo sentito. Il presidente Erdogan ha sospeso per 3 mesi, o meglio ha proclamato lo stato d'emergenza, con il racconto delle purghe vere e proprie. Marco Ansaldo, inviato a pagina 3 di Repubblica, racconta per esempio dello stop ai viaggi ai professori. Carissimo, sono all'aeroporto, sto partendo. Dove? Una località del Mediterraneo. Ci sentiamo al mio ritorno. Fugge, non c'è dubbio, fugge l'anziano professore di letteratura, opponendo il massimo della vaghezza. È primo mattino a Istanbul, il Consiglio turco per l'alta istruzione ha appena diramato il divieto per i viaggi di lavoro all'estero dei docenti universitari, esortando al tempo stesso coloro che già si trovano fuori dalla Turchia a tornare in patria. Insomma, un altro giorno cupo sul Bosforo, e le nuvole nere che si accalcano sulla metropoli lo certificano come un marchio. La notizia della stretta su docenti e università circolava nelle ultime ore. Chi ha potuto ha fatto armi e bagagli e lasciato il paese. La grande purga di Erdogan si abbatte ora dopo i golpisti, i giudici, i giornalisti, gli agenti, anche sui docenti universitari. 1577 presidi di facoltà sono costretti a rassegnare le dimissioni, mentre il Ministero dell'Istruzione annuncia la sospensione di altri 6538 dipendenti dopo i 15200 già allontanati ieri e i 21000 a cui è stata tolta la licenza per insegnare nelle scuole. Numeri impressionanti, ma non è finita. Così Marco Ansaldo racconta, pagina 3 di Repubblica. Tutti i giornali si concentrano anche sul ruolo dell'Occidente. Luca Telese, per esempio, anche sul ruolo del governo italiano. Sul Libero scrive: per il nostro governo questa è democrazia, la diplomazia italiana affidata ai tweet parla con un linguaggio sovietico, ma qualcuno deve spiegare al ministro Gentiloni che Erdogan, anche se è un nostro importante partner commerciale, non è Gandhi. E ne parleremo alle 8.40, soprattutto ora le donne in Turchia che si vedono sempre più minacciate, le donne laiche. Guardate il titolo di prima pagina del giornale: Erdogan purga le donne per le strade, squadre di musulmani obbligano a indossare il velo. Questa è un po' la situazione tragica e che sembra il vero e proprio golpe, questo sì, che è avvenuto in Turchia. E poi c'è la lotta al terrorismo internazionale, ovviamente, che continua. Il giornale racconta di questa ombra della Jihad a Ravenna. In realtà si parla più forse di un matto, però Nino Materi, a pagina 3 del giornale, in realtà la dipinge in modo diverso. Albanese, 28 anni, radicalizzato, la polizia ha trovato in casa sua armi e Corano. E vabbè, il Corano adesso non è una cosa che uno non possa tenere in casa. Se vengono anche a casa mia trovano il Corano. Il GIP dice era pronto per atti violenti. va al parco, invece di godersi il sole, si mette a sparare. Questo muratore 28 anni, musulmano, abitué della moschea. Ora bisogna capire se è un fuori di testa, come si vuol dire, o se invece era una persona radicalizzata. Ravenna, Italia, anche perché, questo è un po' inquietante, lo racconta il Messaggero a pagina 4, pare che questa proprio sia la strategia dell'ISIS. Cioè, sempre abbiamo detto, ma come? Ma tutti questi matti, tutti questi pazzi, tutti questi squilibrati, persone che poi quando fanno questi gesti si va a ricostruire le loro vite e si scopre che erano persone dalla fragile condizione psichica. Ebbene, pare che possa essere proprio una strategia dell'ISIS in Europa, usare i malati psichiatrici, cioè usare quei lupi solitari, cosiddetto, meglio se con una mente disturbata, in modo che li porterà questo a creare il maggior danno possibile. È la nuova strategia dell'ISIS in Europa, secondo l'ultima analisi di Europol, che ha individuato un elemento comune nei recenti attacchi di Nizza, Orlando, Manville, Würzburg. Nonostante le rivendicazioni, potrebbe essere questo il tratto distintivo, il merito da parte dell'ISIS di accaparrarsi i gesti di squilibrati sui quali l'ideologia jihadista agisce da fattore aggravante di una patologia già esistente. Siamo davvero di fronte all'orrore. Siamo quasi in chiusura? Vi segnalo che l'articolo di Gian Antonio Stella in prima pagina del Corriere della Sera racconta della storia del codice degli appalti, un vero capolavoro. Nel codice degli appalti sono stati trovati 181 errori, secondo una sentenza estremamente burocratica della Gazzetta Ufficiale, un umiliante avviso di rettifica al codice degli appalti. Alcuni sono errori di sintassi, alcuni sono errori stupidi, che ne so, si legge per l'attuazione delle direttive, invece era scritto tutto attaccato, oppure altre cause, altri errori di sciatteria, servizi di ingegnera, e invece si legga servizi di ingegneria, e così avanti, da dove c'è scritto i requisiti, gli elaborati, si legga i requisiti e gli elaborati. Ripeto, alcuni errori di battitura, di sintassi, no, non di sintassi, proprio errori, refusi, quelli che si chiamerebbero, comunque imprecisioni, sviste, incongruenze di un funzionario sciatto e anonimo stravolgono una norma fondamentale. 181 errori trovati nel codice per gli appalti. E a proposito di trovati, io l'ho detto, tutte le volte che troverò una pagina ancora, ma che cos'è? Pokémon Go al Colosseo, una pagina del Corriere. I Pokémon Go generazioni contro, una pagina di Repubblica, due pagine Corriere Repubblica sul Pokémon Go, ma che cos'è? Ma chi se ne frega?